buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosa. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. Buongiorno, innanzitutto saluto le due monelle che sono bellissime e bravissime. Complimenti alle due fate turchine. Ma non è che devo fare già i mercati, perché lo sai che io da qua non vedo l'orario. No. Coração e dinheiro. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. In Italia i giovani non trovano lavoro, se riescono lo fanno al termine di un iter difficile e tortuoso. Il motivo? Una formazione inadeguata, lo dice il rapporto McKinsey condotto su 8 paesi e presentato ieri a Bruxelles. Il titolo del rapporto dice tutto: il viaggio tempestoso dell'Europa, dall'educazione all'occupazione. La cifra preoccupante della disoccupazione giovanile in Italia, oltre il 40%, sarebbe solo parzialmente dovuta alla crisi economica. I problemi ribollono molto più nel profondo. Il 47% dei datori di lavoro italiani riferiscono che le loro aziende sono persino danneggiate dalla loro incapacità di trovare i lavoratori giusti, e questa è la percentuale più alta fra tutti i paesi esaminati da questo rapporto. Infatti non si lamentano solo gli imprenditori italiani, ma sono anche così preoccupati gli imprenditori greci, con gli spagnoli, i tedeschi. Però direi che in Italia la situazione è particolarmente critica, e questo porta a lasciare a casa molti ragazzi che hanno magari anche completato degli stage. Non hanno le informazioni su come prendere decisioni strategiche, dicono appunto lamentandosi i datori di lavoro italiani, ma loro vanno anche oltre e denunciano dell'altro. Sembra che sempre più spesso, quando vanno a sostenere un colloquio di lavoro, molti giovani decidono di farlo facendosi accompagnare da mamma e papà. E certo, noi non siamo nessuno per giudicare, però Nicoletta, non mi sembra proprio un buon biglietto da visita. Per questo noi oggi vogliamo parlare di come ci si deve presentare ad un colloquio di lavoro, cosa dobbiamo dire e non dire, come dobbiamo spiegare un po' chi siamo, le competenze che abbiamo in qualche modo ottenuto. E allora raccontatecelo all'800 24 00. Vi è stato mai contestato qualcosa in un colloquio di lavoro? Una competenza mancante, un approccio sbagliato, una strategia sbagliata? E siate sinceri, mamma e papà all'ascolto, vi è mai capitato di accompagnare vostro figlio ad un colloquio oppure di ricevere da lui questa richiesta? Ma noi oggi, come anticipato, vogliamo anche raccogliere le storie di chi ce l'ha fatta e che il lavoro, non trovandolo ad esempio, se l'è inventato. 800 24 00 24, ma come sempre i messaggi al 349 238 6666. Potete come sempre seguirci anche su Facebook e su Twitter. Allora andiamo a cercare lavoro. Essere e benessere. Io esco, ho un colloquio di lavoro molto promettente, il che spiega la mia insolita eleganza. Fatemi gli auguri. Ciao. Auguri. Barana le tigre. Contaci, grazie. Ho il vestito fortunato. Allora, provi a descriversi, signor Dupré. Sono un gran compagnone. Mm-hmm. Sì, sono molto socievole e per me è cosa fondamentale godermi la vita. Non sono un decisionista e neanche uno stacanovista. Se cercate un cavallo da tiro, forse non sono l'uomo che fa per voi, perché io non vivo per lavorare, seguo l'altra filosofia, lavoro per vivere. A proposito, festeggiate di solito il Columbus Day? Noi lavoriamo. Davvero? Beh, ci abbiamo provato, via. Ecco, abbiamo sentito da questo film un approccio decisamente sbagliato per presentarsi ad un colloquio di lavoro. Allora, secondo il rapporto McKinsey condotto su 8 paesi europei e presentato nei giorni scorsi a Bruxelles, il 47% dei datori di lavoro italiani riferisce che le aziende sono addirittura danneggiate dall'incapacità di trovare i lavoratori giusti. Lo stesso problema lo lamentano anche gli imprenditori spagnoli, greci, tedeschi, anche se però, per fortuna per loro, con percentuali minori rispetto al nostro paese. Allora, oggi con commentiamo questi dati con Antonio Bonarda, a cui do il benvenuto, direttore Public Affairs di G Group, è una grande agenzia per il lavoro, quindi conosce molto bene il mercato del lavoro italiano dal punto di vista della domanda e dell'offerta. Buongiorno, benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno. Buongiorno a lei. E allora, domanda e offerta si lamentano appunto in Europa, non si incontrano, la disoccupazione dei nostri giovani non è dovuta a quanto pare solo alla crisi economica. Allora, qual è la causa principale? Che cosa riscontrate voi nell'esperienza di tutti i giorni, visto che fate dialogare chi cerca lavoro e chi lo propone? Beh, innanzitutto diciamo che comunque la crisi economica un impatto oggettivamente ce l'ha, perché se noi andiamo a vedere questi 5 anni appunto di periodo in cui si sta trascorrendo in crisi, le nostre missioni oggi rispetto al 2008 sono il 20% in meno e nel 2009 sono state addirittura il 40% in meno, quindi vuol dire che un'oggettività sulle opportunità la crisi lo comporta e quindi sicuramente ripartire dall'economia, ripartire sulla crisi è importante. Però è vero che il problema di questo disallineamento non nasce con la crisi economica ma viene da molto lontano, perché l'Italia anche già negli anni 90 ha sempre avuto questo problema e il punto a nostro avviso, ma direi che oramai è consapevolezza comune, deriva proprio da una separatezza tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Questo fa sì che il giovane nel periodo in cui si deve formare al lavoro, in cui si forma per il suo futuro, acquisisce una conoscenza che è troppo teorica, non fa esperienze anche diciamo di alternanza, di stage durante il percorso formativo per cui si impatta col lavoro, e terzo, non viene preparato durante il percorso scolastico a come ci si deve muovere per cercare lavoro, esattamente come avete fatto sentire prima. Tra l'altro nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro c'è in Italia un istituto che è quello dell'apprendistato che vorrebbe superare le problematiche che lei ci ha indicato. Per la verità però a questo istituto guardano con un po' di perplessità i datori di lavoro, è come dire utile sicuramente per preparare ad un tipo di attività professionale i giovani. I datori di lavoro hanno anche degli incentivi fiscali molto interessanti, il problema è che però queste persone vanno formate, devono essere individuate all'interno dell'azienda persone che seguono i ragazzi nel percorso formativo e oggi le aziende molto spesso dicono no perché non hanno queste risorse e forse non hanno tempo di dedicare appunto a questa formazione. Sai Deborah, da donna di cuore mi sembra che giovani datori di lavoro assomigliano un po' a una coppia in crisi. Come Hollande e la sua consorte. I due partner si parlano, non si capiscono e ciascuno rinfaccia all'altro quello che non è o non fa. Ma di questo passo insomma non si va lontano, con le differenze, a differenza che noi dal lavoro non possiamo separarci, no? Allora, non resta che provare con il buon senso, certo. O meglio, andare verso la strada della flessibilità, che io credo che non voglia dire accettare contratti precari senza tutele, ma essere un po' disponibile a maturare nuove esperienze che però in qualche modo aiutino il ragazzo poi a inserirsi nel mondo del lavoro. Insomma, la strada è complicata, lo sappiamo, ce lo raccontano i giovani, lo leggiamo nei rapporti, lo viviamo anche noi genitori che abbiamo magari figli che stanno terminando l'università e siamo preoccupati per loro, per cui vi invito a chiamarci per confrontarci, abbiamo capito che accompagnarli al colloquio non si può, quindi stiamo a casa ma cerchiamo di dare a loro una mano. Oggi è una buona opportunità perché abbiamo tanti esperti a nostra disposizione e nello stesso tempo, come sempre, lo vogliamo ricordare, Cuore Denari è sempre aperto, sì. Sportellini aperti anche al pomeriggio. Oggi in studio abbiamo il piacere di avere Claudio Belotti, coach ed esperto anche del nostro Daily Lab, i suoi post sono molto letti. E io vi invito a visitare il nostro Daily Lab per avere consigli quotidiani. Buongiorno e bentornato. Buongiorno, è un piacere essere qui con voi. Allora, strada difficile, io direi da donna di cuore, cerchiamo di metterci d'accordo, puntiamo sulla flessibilità, o meglio, veniamoci un po' incontro. E lo dico ai due partner di questa strana coppia. Esatto, un po' di buon senso. In una civiltà, società che cambia, viene chiamata liquida, dobbiamo essere flessibili, adattarci un po' al contenitore come fa l'acqua. I nostri nonni dicevano prendi l'arte e mettila da parte. Io ho fatto il cameriere per molti anni, ora faccio il coach e ho la possibilità, l'onore di affiancare amministratori delegati di società quotate in borsa internazionali e vi posso assicurare che le mie abilità di cameriere, cioè quelle di capire le persone, di leggerle, di ricordarmi se bevono acqua gasata o acqua naturale, mi aiutano perché, come si diceva prima, c'è uno scollamento fra la scuola e il mondo reale e dal mio punto di vista, non sono l'unico a dirlo, la scuola non insegna nulla di quelle che i nostri colleghi americani chiamano le soft skills, quindi tutte le parti umanistiche, che tra l'altro sono quelle che gli imprenditori lamentano, non trovano i giovani, negoziazione, comunicazione, capacità di prendere decisioni. Al giorno d'oggi avere un figlio ingegnere è più prestigioso di avere un figlio filosofo, perché chi è preparato tecnicamente per qualche ragione è considerato più intelligente. Quando invece, purtroppo per fortuna per me che faccio questo lavoro, purtroppo per altri, chi fa strada nella vita è colui che è preparato, perché bisogna essere preparati, ma è anche molto bravo nella parte umana. E nel colloquio la parte umana è importantissima, negli stage la parte umana è importantissima. Tutti noi abbiamo avuto nelle nostre aziende qualcuno che era molto molto bravo, ma era impossibile lavorare con lui perché era scorbutico, maleducato, egocentrico, e l'abbiamo, come dicono sempre gli americani, lasciato andare. E magari abbiamo tenuto qualcuno che era un po' meno preparato, ma era volenteroso, aperto, entusiasta, collaborativo, perché poi le cose gliele possiamo insegnare. Bonardo, ma lei è d'accordo con questi aspetti sollevati dal nostro ospite? I datori di lavoro, poi, come dire, a parole, no? Queste soft skills, come le chiamano negli Stati Uniti, sono particolarmente apprezzate. Poi di fatto, però, quando ci si presenta ad un colloquio di lavoro, si guarda il curriculum, si guarda quali esperienze sono state maturate, se è stato fatto uno stage, se ne è stato fatto più di uno, se si ha un'esperienza all'estero, se si conoscono giustamente bene le lingue. È vero che apprezzano anche queste doti? Sì, decisamente. E devo dire che sono doti appunto che si possono poi capire quando si fanno i colloqui, da un lato andando a vedere appunto gli aspetti di come uno ha sviluppato la sua formazione e che cosa ha fatto oltre allo studio, che sono tutte le esperienze che ha detto lei prima, che comunque descrivono la personalità. E l'altro è che si sta diffondendo sui neolaureati, e noi lo utilizziamo moltissimo, è la metodologia del cosiddetto assessment center, per cui viene ricomposto un gruppo, diciamo come se fosse un laboratorio, dove vengono assegnate delle parti a ciascuno di loro e poi vengono fatti interagire. E attraverso questa interazione si vanno proprio a vedere queste soft skills, cioè si va a vedere la capacità di comunicare, la capacità di fare squadra, la capacità di risolvere problemi, la capacità di saper anche emergere nella conduzione di un gruppo. E questi sono sicuramente elementi che fanno la differenza a parità di conoscenza hard, cioè di conoscenza tecnica sui contenuti specifici della professione. 800 24 00 24, andiamo a sentire i nostri ascoltatori. Gianluca che ci chiama da Milano e Susanna da Torino. Gianluca, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie mille per la disponibilità. Grazie a lei. Volevo fare un piccolo intervento. Io ho 29 anni, sono di Napoli, ma mi sono trasferito a Milano prima per studio, adesso per lavoro. Se potevo permettermi un piccolissimo consiglio ai ragazzi che si apprestano a effettuare i loro primi colloqui di lavoro, importantissimo naturalmente parlare le lingue, un percorso di studi interessante, ma una cosa ancora più importante, che le grandi aziende pesano molto nel momento in cui devono decidere se assumere o meno, anche le doti caratteriali della persona, la predisposizione di inserirsi in un contesto nuovo, avere l'umiltà di entrare in un contesto non avendo ancora le conoscenze tecniche, ma avendo solamente la predisposizione ad imparare, sono tutte cose che alla lunga possono essere le richieste di volta per avere successo in contesti molto difficili ed internazionali. Un altro punto interessantissimo toccato nella discussione precedente è che ad oggi sono veramente poche le università che inseriscono nel percorso di studi un'esperienza di stage. Io ho studiato sia in un'università pubblica che in un'università privata. La metodologia di insegnamento è molto diversa. Purtroppo oggi in Italia l'università è vista ancora come questo è il libro, imparate il libro e venite all'esame, e il mondo non prepara pieno al mondo del lavoro. Quindi per compensare queste parziali carenze c'è bisogno di veramente tante esperienze. Anche io ho fatto il cameriere a Londra, a cavallo tra la triennale e la specialistica, avere una mentalità predisposta ai nuovi apprendimenti, a sapersi relazionare in tutti i tipi di contesti, con tutti i tipi di persone, e avere tanta umiltà per imparare. Gianluca, tutto questo l'ha premiata nella sua vita? Lei adesso che lavoro fa? Come è stato premiato sulla base di queste sue convinzioni? Ma io sono venuto da Napoli a Milano all'università, dall'università mi sono laureato, adesso lavoro in una multinazionale americana nel settore dei servizi finanziari. quindi mi ritengo molto fortunato e soddisfatto, soprattutto in un periodo come questo. Bravo Gianluca, in bocca al lupo e grazie per averci chiamato. Insomma, bisogna essere flessibili, anche se è noto da un'ascoltatrice o ascoltatore, non si firma, che questa parola flessibilità sembra quasi una parolaccia o comunque un concetto che non si addice ad esempio ad una coppia, cosa invece che per, come se ci fossero dietro dei magheggi o dei segreti. Esatto. Flessibilità vuol dire venirsi incontro. Dottor Belotti, lei che dice? Dico di sì, io che ho la fortuna di essere sposato a una donna straordinaria che non è della nostra cultura, sono obbligato a essere flessibile e andarle incontro, perché lei spesso mi viene incontro, quindi a volte devo farlo anch'io. Accogliere un po' quelle che sono le richieste degli altri, cercare di soddisfare e modularsi. D'altra parte la coppia del lavoro e nella coppia privata, no, devono, lo chiederei anche al nostro dottor Bonardo, devono trovare un'intesa, la rigidità non prende. In questo era la mia, il significato di flessibilità. Anche se nelle ultime riforme del lavoro il concetto della flessibilità è stato inteso in maniera invece ben diversa da quello che stiamo sponsorizzando un po' noi stamattina, no Bonardo? Sì, diciamo che questo concetto che stiamo, di cui stiamo parlando noi, della flessibilità, è fondamentale anche perché oggi il contesto aziendale è l'azienda stessa che deve essere flessibile per adattarsi ai cambiamenti del mercato, perché l'impatto che sta avendo, da un lato l'economia in cambiamento, dall'altro la crisi che richiede all'azienda stessa di ripensarsi, ripensare i prodotti, ripensare i processi, richiede a chi è dentro l'azienda di essere molto più flessibile e capace di leggere i cambiamenti e di adattarsi. Poi certo c'è anche il tema della flessibilità contrattuale, ma qui se apriamo questo... Ma noi parliamo molto, ci focalizziamo sui ragazzi, ma dottor Bonardo, non è che le aziende pretendono troppo perché vogliono pagare poco, visto che il cuneo fiscale è alto, pretendono molto ma poi offrono condizioni, io direi, non serene per le persone che assumono? Ma... è chiaro che in situazioni di questo tipo, in cui noi abbiamo una offerta di gente che si offre sul mercato, che comunque in questo momento è più ampia rispetto alla domanda, ci possono essere situazioni, diciamo così, dove uno cerca di approfittare della situazione. Però sicuramente non è questo, a mio avviso, il panorama generale, perché le aziende, soprattutto la crisi l'ha fatto capire, sanno che devono cambiare il loro modello produttivo organizzativo, perché si devono aprire all'estero, bisogna esportare molto di più e bisogna innovare molto di più nei prodotti. E queste sono attività che tu non fai se non hai persone formate e persone innovative e di valore. Tra l'altro, tra le analisi che abbiamo letto ieri proprio per preparare questa puntata, ne abbiamo anche vista qualcuna che dice le professionalità non sono adeguate per quelle, diciamo, per quello che richiede adesso il mercato del lavoro, perché appunto l'economia mondiale cambia così repentinamente, ma in realtà questi trend economici non sono mica, come dire, partiti ieri. Abbiamo, come dire, aziende che sono pronte a proiettarsi sui mercati internazionali, altre che ci sono invece da decenni, per cui per la verità non è poi una giustificazione corretta, secondo me. Non so che cosa ne pensiate. Io penso che alcune persone... perderò i pochi fan che ho, sono un po' pigre, aspettano l'ultimo momento e quando è necessario. Per flessibilità io non intendo accettare l'inaccettabile o far sì che qualcuno si prenda gioco di noi. Nello stesso tempo dobbiamo capire che deve essere una partnership fra il collaboratore e il datore di lavoro. Io devo fare gli interessi del mio datore di lavoro e il datore di lavoro deve fare i miei interessi. E devo adattarmi alle richieste, perché se sto sulle mie posizioni nessuno mi cercherà. Succede in una coppia, succede nella vendita, succede ovunque. Io ho avuto l'onore di affiancare come coach un VP, un vice president di una banca internazionale importante qui in Italia, che era tecnicamente straordinario, ma aveva qualche difficoltà a comunicare. Ne ho fatti, non mi voglio mettere al suo livello, ne ho fatti alcuni anch'io, professionalità veramente eccellenti. Poi a certe figure bisogna insegnare, esatto, a parlare con i giornalisti, a porsi con il pubblico. Per lui è stato difficilissimo fare questo lavoro, ma si è messo in gioco, è andato oltre alcuni, quelli che qualcuno avrebbe potuto chiamare blocchi, e questo signore in questo momento è diventato CEO di questa banca, la gestisce in modo eccellente, rappresenta nel board internazionale l'Italia facendoci onore, e soprattutto una persona, grazie alle sue capacità umane, che però per qualche modo non tirava fuori, sta rendendo felice molti dei suoi collaboratori che crescono con lui. Adesso in privato mi dice chi è. Poi, se abbiamo altre curiosità, Nicoletta. Volevo leggere, certo, per dare un po' anche un aiuto concreto ai nostri ascoltatori che si stanno mettendo in contatto con noi al nostro centralino via SMS. Voglio leggervi Laura, ci scrive da Como, ha 28 anni, ha sempre fatto di tutto per andare incontro ai suoi titolari, infatti ha fatto un sacco di esperienze poco retribuite, aggiunge. 3 anni fa sono entrato in uno studio come, tra virgolette, prova, con una finta partita IVA, con la promessa di un contratto. Oggi temo che non mi assumeranno mai. Ho sbagliato, dottor Bonardo? No, io penso di no. Penso che non abbia sbagliato, perché intanto ogni lavoro ha sempre un apporto di conoscenza per chi lo fa, e quindi questo comunque arricchisce le sue esperienze. Quindi comunque lei oggi si presenta sul mercato del lavoro con qualcosa da poter offrire rispetto a chi invece non ha fatto tutte queste attività. Poi questo fa parte un po' dell'attività, diciamo, di chi è nel lavoro, cioè che è anche quello di cambiare, no, il proprio lavoro specifico che uno sta facendo per renderlo migliore, o trovare opportunità che siano più appaganti rispetto a quello che uno sta facendo. Cuore e denari. È un orologio giapponese, l'ho trovato nell'uovo di Pasqua che mi ha regalato una mia amica, Maria Rosa, che vorrebbe diventare la mia fidanzata. Guardi, è d'accordo con mia madre? Non interessa! Lei se ne intende di assicurazioni sulla vita? Insomma, praticamente... Bene, e allora mi calcoli l'aliquota annuale di una polizza a vita di un nostro ipotetico cliente. Per esempio, ecco, questo mio collega. Beh, io il signore non assicurerei, ha già un piede nella fossa. Anzi, sono sicuro che non passerà la notte. Ma come? Come si permette? Visto? Ecco, chissà se va bene la, come dire, grande sincerità ad un colloquio di lavoro. Poi lo chiederemo ai nostri ospiti. Comunque, eccoci ritrovati a Cuore Denari. E chiediamo anche ai nostri ascoltatori, Deborah, se quando hanno fatto un colloquio di lavoro, quale strategia hanno adottato? Sono stati sinceri? Si sono preparati? E anche a chi è stato, si può dire, dottor Bonardo, l'esaminatore, chi ha fatto il colloquio di lavoro, magari da che cosa ha capito, ha intuito? Quali sono le caratteristiche che balzano agli occhi, che sono assolutamente importanti, perché così noi diamo dei consigli per evitare di cadere delle trappole, perché in fondo il colloquio di lavoro è un po' un esame. Sì. Quindi cerchiamo di prepararci e superarlo. Presentarsi con il genitore al seguito è una buona decisione, dottor Bonardo? Assolutamente no. Ma capita, voglio dire, anche nell'esperienza quotidiana della vostra attività, voi siete una grande agenzia appunto di servizi per il lavoro, c'è qualche curriculum che per esempio vi arriva per fare in modo che voi lo presentiate a qualche azienda e che vi è sospetto un po' anche per come è stato compilato, c'è stata la manina di qualcuno, se non è un genitore magari qualcun altro? Ma da questo punto di vista devo dire che può esserci qualche caso in cui si vede che magari il curriculum a porte è fatto, però poi tanto c'è sempre il colloquio, esatto, dove la realtà... Le bugie hanno le gambe corte. Esatto, ma l'intervento della famiglia? Però in taluni casi capita che appunto la persona si presenti al colloquio. Diciamo, il genitore segue il figlio o la figlia. Ma perché sono genitori invadenti o perché non vedono l'ora di sbolognarsi questi figli che magari hanno già 28-30 anni e non se li levano dai piedi, no, Bonardo? Com'è la storia? Mi sembra di leggere la situazione più come genitori invadenti o genitori che hanno magari non sufficienti competenze e quindi sono diffidenti, non sanno bene queste agenzie, come funziona, eccetera, vogliono venire a vedere e a capirne di più. Però devo dirle che in questi anni sta però anche succedendo il fenomeno del genitore che viene col figlio, ma perché il genitore è disoccupato. Ecco. Certo. E quindi il figlio viene chiamato e il genitore, pensando appunto che noi siamo un'opportunità, viene, ma perché lui stesso approfitta dell'occasione per presentarsi e per cercare lavoro. Questo è un fenomeno invece che sta succedendo, ma a seguito appunto della crisi. Deborah, a proposito di genitori, abbiamo in linea Francesco da Treviso che ci deve raccontare qualche cosa a riguardo. Francesco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io sono uno studente di Venezia e ho dei compagni di corso che lavorano al call center dell'università. Sì. E ci facciamo spesso delle grasse risate perché mi raccontano di genitori che chiamano per chiedere informazioni per i figli, ma la cosa divertente è che non sono genitori di matricole solo a chiamare, ma anche genitori di laureandi, di lauree magistrali, di corsi di laurea magistrale, che chiamano per informarsi su date, tasse da pagare per la richiesta di laurea e queste cose. Francesco, sono i genitori di quelli che erano stati definiti, poi sembravano spariti, ma forse sono ancora qua, dei famosi bamboccioni. Quindi il termine offensivo. Potrebbe essere. Noi diciamo sempre che il prossimo step sarà il genitore che va a colloquio dal professore a reclamare un voto basso, a protestare. No, mi riferiscono che a Padova c'è stato un caso simile a ingegneria di un genitore che è andato a protestare dal professore perché il figlio non riusciva a passare un esame di matematica molto difficile. E quindi? Io pensavo che si fermassero solo all'elementare o alle medie, invece sì. Invece no. Invece, grazie Francesco. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Mi è piaciuto anche il tono un po' ironico con cui Francesco raccontava e così commentava un po' questi comportamenti di questi genitori, di suoi amici. Bonardo. Sicuramente il problema sociale che è stato anche evidenziato da alcuni, per cui non so, ai nostri tempi i miei genitori davano comunque sempre ragione ai professori, a priori, e ci prendevamo pure magari una sberla, ecco. Oggi questo pendolo si è invertito dall'altra parte. E poi Claudio Belotti dicevano: ringrazia che ti insegna un lavoro, ringrazia che ti prende, ringrazia che ti dà questa opportunità. Non ci dicevano, ma molti genitori lo fanno, ma non è troppo poco per te, ma ti stancherai? E forse questo è il problema, cioè diamo sempre la colpa agli altri. Non trovo lavoro perché i datori di lavoro sono sbagliati, non trovo i collaboratori perché i collaboratori sono sbagliati. Cioè, forse per flessibilità potremmo anche dire: magari mi metto io in gioco, mi chiedo io, forse ho preso un brutto voto nel caso dell'esempio, perché avrò studiato tantissimo ma non sono stato in grado di convincere il professore che ero preparato. Certo. Oppure non trovo lavoro perché vado al colloquio e racconto un sacco di bagianate, o si vede lontano un miglio che certe cose non le so, o sono indeciso, sono insicuro, quello che è. Io sono un imprenditore e cerco persone valide, ma devono convincermi che hanno voglia di lavorare e hanno voglia di crescere con me. La domanda non voglio fare beneficenza, e comunque anche chi fa beneficenza non la fa a chi non si mette in gioco. Quindi, insomma, chi ha tempo non aspetti tempo e cerchi di orientarsi. Piangersi addosso, l'abbiamo visto, non serve, ma ugualmente rischioso è affidarsi anche alla speranza che qualcosa succede. Insomma, bisogna darsi una mossa, ma quella giusta. Ci dà una mano anche Cristina Gianotti, business coach e specialista in mercato del lavoro. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Da che cosa iniziamo allora, concretamente? Allora, iniziamo da due cose, anche se forse possono sembrare un pochino old style vista la testimonianza dell'ascoltatore Francesco. Allora, i ragazzi si prendano in mano, diciamo, se stessi e facciano perlomeno due cose. Uno, studino non solo le materie dell'università o delle superiori, ma studino proprio il mercato del lavoro attraverso i giornali, attraverso delle pubblicazioni, attraverso internet. Non si fermino magari ai titoli che talvolta, diciamo, sono disperanti o roboanti, ma diciamo approfondiscano. L'altra cosa, si orientino. Magari uno è difficile che sappia orientarsi da solo, ma ci sono, diciamo, varie fonti e vari strumenti. Ci può essere, diciamo, un parente, ci può essere un amico, ci può essere un professore, ci può essere uno studente più esperienziato di noi, oppure, diciamo, una persona che ormai è entrata nel lavoro. E quindi va bene la speranza, oltretutto siamo all'inizio dell'anno, ci mancherebbe, però un aiutino, come si dice, sì, aiutati che il certo aiuta. Certo. Con questa attrezzatura quindi si può andare a cercare lavoro. Si può andare a cercare lavoro e si possono, diciamo, considerare diversi tipi di canali. Allora è vero che c'è internet, e internet diciamo va benissimo soprattutto per i giovani, però magari quelli con un pochino di esperienza, ci sono gli headhunter che però magari cercano solamente delle persone con un altissimo potenziale, e invece noi siamo delle persone normali. Noi siamo giovani. Esistono le agenzie per il lavoro, di cui diciamo abbiamo parlato, perché il dottor Bonardo ne rappresenta una, che vengono, che devono essere visitate di persona, non solo diciamo stando seduti sul divano e navigando su internet. In più, la seconda diciamo cosa che volevo aggiungere, esiste un network, e il network deve essere usato in maniera professionale. Quindi il network, lo devo dire perché siamo in Italia, non è raccomandazione, è diciamo utilizzare le persone diciamo che si conoscono per avere dei suggerimenti, per avere un orientamento, per avere un parere, per avere diciamo magari un contatto, però diciamo solamente come diciamo strumenti di quello che diciamo comunque è un nostro progetto, e non delle persone su cui scarichiamo il nostro problema, che è quello di cercare lavoro. Poi, tra l'altro, altro canale diciamo che aggiungerei sono le candidature dirette. Magari ci sono delle aziende con cui voglio entrare in contatto, non aspetto l'annuncio, non aspetto che me lo offrano qualcuno, come per esempio l'agenzia per il lavoro a cui mi sono rivolta e con cui sono entrato in relazione, ma scrivo io, o attraverso il sito, oppure diciamo scrivendo proprio una lettera. L'altra cosa, frequento le fiere che vengono diciamo organizzate per esempio dalle università. Io sono di Milano, quindi conosco diciamo il movimento che c'è su Milano, però immagino che anche in altre città ci siano diciamo tutta una serie di fiere che vengono organizzate proprio per mettere in contatto le persone che stanno uscendo dall'università con tutta una serie di aziende. No. Quindi questo è il primo punto, i canali diciamo. I canali sono fondamentali. Ecco, e sono diversi, e così rispondiamo anche all'ascoltatore che ci dice: ma vi rendete conto che sono solo belle parole? No, io capisco che in una situazione di ricerca tutto sembra difficile e non arriva mai il consiglio che ti riesce a risolverti la situazione, ma questi sono dei consigli per orientare, per provare delle strade. E poi anche noi chiaramente stiamo, come dire, battendo la strada del buonsenso, i miracoli, anche dal punto di vista radiofonico, anche se la radio del Sole 24 non possiamo farne. Però volevo invitare, siccome stamattina stiamo focalizzando la nostra attenzione sul mondo giovanile, perché la disoccupazione giovanile in Italia è ad un livello drammatico, ben oltre il 40%, per la verità c'è un'altra fascia sociale, ce lo indicava prima il dottor Bonardo, che sta vivendo una condizione estremamente difficile: gli over cinquantenni, chi ancora è ben lontano dalla pensione ma è fuori dal mercato del lavoro. E questa mattina magari direi di non affrontare il tema, se sei d'accordo Nicoletta, però la lanciamo per un'altra puntata, un approfondimento. Lo dico a Luisa da Padova, che mi scrive proprio a caratteri grandi: aiutate con buoni e reali consigli gli over 50. Non buttiamo via così l'argomento stamattina, ce lo confezioniamo per un'altra puntata molto presto. Quindi, per concludere, dottoressa Gianotti, chi ha tempo non aspetti tempo, al lavoro ci si arriva prima ancora del diploma e prima ancora dell'università, non solamente dopo averle concluse. Certo, il mio consiglio è quello diciamo di fare uno studio di quelle che possono essere diciamo gli sbocchi di come sta andando il mercato del lavoro ben prima di aver conseguito diciamo il titolo, in modo da acquisire tutta una serie di informazioni che ci possono poi rendere diciamo maggiormente efficaci proprio nel momento in cui deve essere affrontato il mercato del lavoro, senza diciamo lasciarsi prendere da una cultura che a volte è una cultura di attesa e di pretesa nei confronti delle istituzioni. Quindi il mio consiglio è proprio diciamo quello di diciamo tirarsi sulle le maniche e metterci del proprio. Grazie, come facevano un po' i sette nani, no? grazie alla dottoressa Gianotti. Andiamo. Cuore e denari. Ci state scrivendo e telefonando in tanti. Noi adesso a microfoni spenti stavamo commentando un SMS di un papà che si chiama Roberto, che ci scrive da Treviso e dice: ho una figlia in prima liceo, da che età può fare lavori estivi ed eventualmente può fare lavori nel fine settimana? Abbiamo le idee molto chiare, Roberto, su questo adesso le condivideremo con lei, ma ci sono anche degli ascoltatori pronti ad intervenire. Nicoletta, abbiamo Susanna che ci aspetta da un bel po'. Sì. ci aspetta da Torino, paziente, buongiorno. Esatto. Buongiorno. Buongiorno Susanna, ci dica. Buongiorno a tutti. Senta, io volevo dare un po' la mia esperienza. Io ho una ragazza che sta finendo la quinta superiore e un ragazzo che ha iniziato la prima superiore. Io e la ragazza abbiamo fatto dei professionali, hanno scelto dei professionali, tutti e due, uno un tecnico, uno un professionale. Sono stata fortunata perché comunque il professionale ha avuto mia figlia, ha sempre utilizzato professori che arrivavano dal mondo del lavoro. Uh-huh. E quindi giovani anche, perché abbiamo dei professori di 25 anni, quindi non proprio sapevano spiegare bene anche quello che succedeva all'interno del lavoro vero e proprio, non solo l'atto, diciamo, scolastico. Sì, quindi tutto bene. L'unica pecca? È l'inglese. L'inglese. Non ci sono mai stati insegnanti madrelingua, non insegnano l'inglese come all'estero, e questo succedeva anche alle medie e succede tuttora nella scuola di mio figlio. E invece l'inglese bisogna saperlo, ormai è dato quasi per scontato. Esatto, ma l'unica chance è andare all'estero. Chi vuole rispondere? Bonardo, cominciamo con lei. O sposarsi una moglie americana come ha fatto il dottor Belotti. Che non è un'idea che ci dispiace, quasi quasi mi trovo l'americanino, va così, perfeziono. Ma diciamo, questa è, ha ragione la signora, questa è una mancanza grave, perché adesso nel suo caso appunto la ragazza ha fatto l'istituto tecnico, ma noi abbiamo casi di studenti che arrivano dopo la laurea, quindi hanno fatto elementari, 3 anni di medie, 5 di superiori, 3 più C, e l'inglese è appunto ancora scolastico. Questo vuol dire, da un certo punto di vista, il fallimento di un percorso scolastico, perché la scuola non può non portare sul mercato del lavoro delle persone che non hanno almeno una capacità, come dire, di utilizzo dell'inglese in contesto professionale. È vero, però per la lingua c'è l'attitudine, secondo me, ma io credo che la scuola dell'obbligo non sia sufficiente per come dire, renderci capaci ad una conversazione fluente, non so, Bellotti. Condivido e dico, se non lo fa la scuola dobbiamo farlo noi. Io ho fatto il cameriere in un ristorante a Londra dove c'erano le tovaglie a quadretti e bottiglie di Chianti, c'è un ristorante di basso rango, mi hanno pagato poco, ho imparato l'inglese e mi sono obbligato, parlando di pigrizia, a leggere tutti i giorni un quotidiano, nonostante non capissi nulla, ma almeno vedevo come erano scritte le parole. E adesso con la digitale terrestre o con le altre TV a pagamento possiamo selezionare lingua originale e guardiamoci film in lingua originale. Non capiamo nulla, va bene, li guardiamo 10 volte, guardiamo un film che abbiamo già visto in modo tale che sappiamo cosa succede, e prima o poi qualcosa entra. Perché dobbiamo impegnarci, perché l'inglese rende. Salva Danaio. Il suo nome, prego? John C. Public. Public, ci deve essere una L in mezzo. Mr. Public, ha avuto esperienze in qualche ufficio prima d'ora? Sì, certo. Di che tipo di ufficio si trattava? Rettangolare. Ha per caso qualche esperienza nell'uso di un computer elettronico ultimo tipo? Sì, l'ho usato. In che ditta? Mia zia ne ha uno. E nel colloquio di lavoro Woody Allen, creativissimo, e noi parleremo di creatività, di chi il lavoro, non trovandolo, se l'è inventato. E quindi state attenti, restate collegati con noi, chiamateci se il lavoro ve lo siete inventato, perché dalla vostra esperienza possiamo imparare, ma state con noi per sentire delle storie di ragazzi che ce l'hanno fatta. E sono storie che ci mettono, vero, ci ricaricano di energia. 800 24 00 24. Dove andiamo? Torniamo al nostro colloquio di lavoro, poi sentiremo Patrizia, Pietro da Milano e Luciano anche da Ferrara, che si è aggiunto negli ultimi istanti. Però dicevamo, lo abbiamo detto per tutta la puntata fino a questo momento, ci sono tanti aspetti da tenere presenti per cercare di fare l'impressione migliore, non solo nel modo di porsi, nel modo in cui ci presentiamo, e se accompagnati dalla mamma o meno fa la differenza, direi, ma anche nelle cose che scegliamo di dire e non dire. Allora ci facciamo aiutare da un altro esperto, uno dei nostri esperti preferiti per quello che riguarda il lavoro, giuslavorista ed esperto per Il Sole 24 Ore, l'avvocato Giampiero Falasca, che saluto, buongiorno e buon anno, perché ancora non ci siamo fatti gli auguri. Buon anno. Oh, buongiorno Deborah, buongiorno a entrambe e grazie per il preferito. Eccoci qua, sa com'è, sono sempre particolarmente, non si sa mai, dovesse cacciarmi Il Sole 24 Ore mi presento da lei subito, Falasca, non si sa, anche se proprio non ho nessuna competenza giuridica. Il rischio è che porta anche me. Ecco, appunto. Quindi le due simpaticone ci mettono in reception a fare le sciocche. Un colloquio di lavoro lavoro, Falasca, è a tutti gli effetti vissuto come un esame dal candidato, no? Ma può essere anche un modo per capire la serietà dell'offerta che mi viene fatta, le intenzioni del mio esaminatore anche dal punto di vista delle garanzie. E le metto dentro un SMS che ci è arrivato nel corso della trasmissione, di un ascoltatore che ci racconta il suo primo datore di lavoro, il dirigente del personale, lo fece aspettare in anticamera per 5 ore per testare la sua pazienza. Le chiedo subito un commento su questo, poi sentiremo anche gli altri. Crudele, no? Come sì, i genitori di Coletto Rosa. Però non si fa più. Io dico sempre ai giovani di non essere svogliati, però io di fronte a una cosa del genere me ne sarei andato, francamente, perché una persona che inizia così mi dà un messaggio sbagliato. Vi racconto una cosa brevissima: noi riceviamo tantissimi curricula anche al nostro studio e ci siamo attrezzati e organizzati per cercare di dare a tutti un feedback con un mail di risposta che non sia un prestampato, ma con anche un commento del curriculum. Poi li guardiamo tutti e li licenziamo, perché chi fa un colloquio comunica anche i valori dell'azienda e dell'organizzazione che rappresenta. Quindi lo trovo sconvolgente questa cosa. Se l'avessi saputo io avrei suggerito di cambiare il capo del personale, perché insomma uno che inizia così in futuro vorrà dire che gestirà molto male. Gli ospiti in studio annuiscono, Falasca. Senta, per tornare al tema di come ci si presenta al colloquio, le metto dentro anche Pietro da Milano che ci racconta come costruisce e elabora il suo curriculum, perché da quello che capisco ci mette troppe cose che non vengono apprezzate. Pietro, buongiorno. Buongiorno, niente, io sono andato a un colloquio di lavoro e questo signore qua mi ha detto: ma lei quanti lavori ha fatto? Cioè, proprio con quel tono lì, Pietro? Sì, sì, con quel tono lì. Poi ci vogliono 4 valigie di volontà. Cioè, ho detto: guardi, se lei vuole personale io sono disponibile, se no lei non può avere la pappa pronta, si costruisca le persone che vuole. Cioè, nel senso che i datori di lavoro hanno troppe pretese oggi, dovrebbero aiutare le persone a comprendere un tipo di lavoro e portarli avanti loro, no? Che vogliono la pappa pronta. Io comunque ho fatto tanti lavori e ho cercato sempre di darmi da fare, però non sono mai stato apprezzato per quello che ho fatto. Pietro, allora sentiamo. È difficile. Certo. Falasca, che ne pensa? È un po' come presentarsi al colloquio di lavoro e strafare, dire troppe cose, no? Anche quelle inutili. Beh sì, allora io direi che nel curriculum una scrematura dell'esperienza va fatta. Cioè, diciamo, io per anni ho messo nel mio curriculum che avevo fatto con le express d'estate e poi a un certo punto ho capito che non è più il caso di metterlo e quindi va tarato rispetto insomma al numero di aspettative. Mettere tutto non serve, ecco, diciamo, fate una scrematura, date una coerenza. Ma ci sono delle indicazioni per fare questa scrematura? Esatto. Perché magari uno lascia il Pony Express e omette nella scrematura la pizzeria magari a Londra, come ha fatto il dottor Bellotti, no? Esatto, esatto. Diciamo, dalle cose troppo brevi io non le metterei, a meno che non abbiano un particolare significato in funzione del lavoro che voglio fare. Esatto. Una hostess per un congresso, allora posso mettere le giornate che ho fatto la hostess per un congresso. Senta, è vero che vengono apprezzate molte le esperienze di volontariato, specie all'estero? Quindi non colloquio di lavoro, bisogna leggenda. Allora, vi racconto la mia personale battaglia contro il corso di fotografia. Ora ovviamente arriveranno migliaia di email di appassionati di fotografia, sono anch'io. Io in realtà quello che non capisco nel curriculum, perché una persona mi debba scrivere perché è appassionato di fotografia. C'era un vecchio adagio per cui bisognava dire che si amano gli sport di squadra per dimostrare, bisognava dire che si ama la lettura, che si amano i film. Già, secondo me, dal punto di vista di quella legge curriculare, sono tutte cose ininfluenti. Serve una pagina e mezzo efficace. Quindi io vado a guardare a occhio quanto è durato il percorso di studi, comprovo come è durata, sì. Il voto, cioè, ovviamente dipende poi dal tipo di attività che cerchiamo, ma insomma certo, comunque è sempre indicativo, la lingua e le esperienze, quelle 3 o 4 esperienze più importanti. Se il datore di lavoro chiede come sia conclusa la precedente esperienza di lavoro, se questa si fosse conclusa in maniera traumatica, come la si deve raccontare? Perché comunque è verità. Questa è molto delicata, molto opportuna questa domanda. Direi che se c'è stato un licenziamento per giusta causa, perché ho rubato dalla mensa aziendale, non è il caso di raccontarlo. Vabbè, ma se erano i cracker, Falasca. Vabbè, detto questo, comunque insomma attenzione anche. Essenzialmente, esatto, essenzialmente io non parlerei mai male della precedente esperienza. Io vi dico, io ho fatto il colloquio con un ragazzo. Vede che torna di nuovo la cosa della coppia, scusi Falasca, per la donna di cuore. Non bisogna mai parlare male del precedente fidanzato, della precedente fidanzata. Va bene, abbiamo terminato. Se ne può pensare male, ecco. Ma parlarne male non è. Bravo. Bravo. Falasca, noi dobbiamo lasciarla, ma il cuore dei suoi suggerimenti l'abbiamo stritolato bene e adesso metteremo tutte queste indicazioni sul nostro profilo Facebook. Però noi torniamo tra qualche minuto. Grazie. Con Leonardo e Belotti, che tra l'altro con noi. Soprattutto Belotti, sono contenta che annuiva le indicazioni di Falasca. Vedi che belle carambate che facciamo, no? Cuore e denari. Una grattugia per la noce moscata. Da sogno. O delle formine per i ghiaccioli, cosa te la dico a fare? Da sogno. O un laser per la depilazione inguinale, da sogno. O delle mentine al mentolo, da sogno. O delle case da sogno. O delle barche da sogno. O delle donne da sogno. O degli accessori da sogno. O delle macchine da sogno. Organizzo party da sogno. La mia vita è tutta un sogno. Sì, questa era il rifacimento, diciamo, di Crozza, però il grande. Il nostro coach di stamattina, Claudio Belotti, ci diceva che The Apprentice di Flavio Briatore lo farà vedere alle sue figlie. Perché? Che cos'ha di educativo questo programma? Beh, non è che lo faccio vedere, le obbligo, loro sono ben disposte a vederlo. E spero che impareranno che purtroppo il mondo non è una favola, o almeno lo è, ma è una favola vera, quindi non tutti sono buoni, non sempre il principe azzurro è sorridente o la principessa è bella perché ha dormito tante ore. E in qualche modo dobbiamo saper gestire le difficoltà e essere flessibili, cioè adattarci, come il grande Darwin ci ha spiegato. Così ci ammutolite così? Sì, citando addirittura Darwin. È difficile, veramente, Belotti, se ammutolisce noi. Sì, è un grande coach. Allora, questa parte, come sempre, sino alle 12:28-29, sì, a termine del programma, noi vogliamo dedicarla alle telefonate dei nostri ascoltatori, perché partendo proprio dalle loro richieste chiederemo ai nostri esperti di dare consigli pratici, ma ve l'avevamo anticipato, sì, vogliamo parlare anche di creatività, di chi il lavoro non trovandolo se l'è inventato. 800 24 00 24, abbiamo tantissimi ascoltatori, sì, sì, sì, sì. Intanto possiamo dire già a Deborah che per gli ascoltatori che non riusciranno a mettersi in contatto con noi, siete davvero tante, ma questo ci fate piacere. Esatto. Io vorrei un giorno ricevere 150 telefonate. Sì, dobbiamo rubare qualche ora di programma a qualche collega, ecco. Ma però perché vi dico questo? Perché voi potete anche approfittare della, sì, consulenza dei nostri esperti, che gentilmente si mettono a disposizione dei nostri ascoltatori per dare una mano, un aiuto, e quindi trovate tutto anche, no, anche. Sulla nostra pagina. Voilà. Andiamo? Silvia, andiamo, Davide, Denise e Monica. Esatto. Precedenza alle ragazze. Assolutamente. Dai, dove andiamo? Andiamo subito a Milano da Silvia, che lei dice reinventata un lavoro e quello nuovo è straordinario. Silvia, buongiorno. Va di gran moda, da quello che capisco. Però mi dica. Sì, io in un periodo di difficoltà, come un po' caratterizza tanti giovani in questo periodo, non trovando occupazione, mi sono inventata un nuovo lavoro aprendo un laboratorio creativo di riciclo e riuso, sì, in provincia di Milano. Sono tante diverse le materie prime che andiamo appunto a recuperare da discariche, da vecchie cantine, da garage, da cantieri abbandonati, e recuperando appunto questo materiale do avvio a delle creazioni che hanno la finalità di abbellire e decorare le nostre case, ecco, quindi dei complementi d'arredo, piuttosto che appunto oggetti di utilizzo quotidiano, per esempio, non so, delle lattine di latta, dei pelati, certo, per esempio. Cosa diventano? Si reinventano, vengono dipinte, abbellite con dei ritagli di cinture, e vengono utilizzate come dei portaposate da tavola. Quindi è diventato un po' imprenditore di se stesso. Allora volevo chiedere ai nostri esperti quali sono le caratteristiche per diventare imprenditore di se stesso. Forse la prima cosa è rispondere all'esigenza del mercato, no? Sì, secondo me, secondo me lo dicono le ricerche fatte anche negli ultimi anni dalle più prestigiose università del mondo. Imprenditore di se stessi si diventa cercando di diventare proattivi o responsabili, dal latino abili di dare una risposta, invece di subire le cose, dire ok, c'è la crisi, non ci posso far nulla io, non posso purtroppo risolverla, cosa posso fare? Quindi cercare di pensare un po' in modo diverso, e davvero essere proattivi, non mi viene altro, non fermarsi. Se si perde il lavoro, la cosa peggiore da fare è stare sul divano e barba sfatta in pigiama e aspettare che suoni il telefono, ecco. E continuare a dire che il mondo è fatto di, come ci scrive un ascoltatore, di raccomandazioni, ricatti sessuali, molestie, vessazioni, minacce, eccetera. Il mondo è fatto di quello, ma non solo di quello. C'è anche quello, sì. No, tra l'altro vogliamo per un attimo dedicarci anche alla questione della raccomandazione, perché nel concetto in cui analizzano i nostri ascoltatori e la concepiscono, è un concetto assolutamente negativo. Il politico che comunque chiama magari un ufficio pubblico per poter collocare una persona non molto competente e che non trova lavoro per tante ragioni. Il tema della segnalazione, Bonardo, magari è un concetto diverso della raccomandazione. Sì. Ed esiste nel mondo del lavoro ed è anche utile per gli imprenditori. Sì, assolutamente. Cioè è l'idea appunto di raccogliere informazioni sulla persona presso altre esperienze di lavoro che lui ha fatto. Quindi è una prassi anche che noi svolgiamo, cioè quella di farci dare dalla persona almeno un paio di nominativi di datore di lavoro dove lui è stato, mm-hmm. di modo che noi possiamo riscontrare anche attraverso una verifica la veridicità delle mansioni che lui ci dice di aver svolto e anche come lui è stato all'interno del mercato. Mi scusi, del dottor Bonardo, ma per chi è alle prime armi e quindi non ha magari fatto esperienze lavorative, ma ha fatto vere e proprie, ma ha fatto, parlo dei giovani, ha lavorato magari in nero, ha fatto la babysitter, è andato a fare il cameriere o ha fatto dei piccoli lavoretti con cui si è magari pagato un po' gli studi, ha dato una mano in casa, valgono anche questi? Ma anche in questo caso qui, per esempio, in certi casi per gli universitari vengono segnalati i nomi dei professori che li hanno seguiti nel percorso di tesi, piuttosto che appunto per chi ha avuto lavori occasionali, il fatto di segnalare questi lavori e le persone con cui li ha svolti possono essere una fonte, diciamo, di referenze. Diciamo che il cognome nobile della raccomandazione è referenza, è lì che volevo arrivare. È la referenza. Allora, chi sentiamo? Qualche altro? Io vado a Lucca. Denise, vai, buongiorno. Vai. Buongiorno. Mi chiamo Denise. Sì? È fortunata perché vive nei dintorni di Lucca, straordinaria città. Cioè, e che cosa ha fatto? Esattamente, di Massa Rosa, e sono una psicologa. Sì. Ho 27 anni e ho da pochissimo terminato l'esame di Stato, perché l'ho terminato a dicembre, quindi sono in corso di iscrizione all'albo regionale. Sì. E niente, ho ascoltato con piacere, come quasi ogni mattina, la discussione e mi sento molto partecipe di questo discorso, perché specialmente nel nostro settore c'è sempre un malcontento generale e soprattutto una delusione in partenza, perché sembra quasi impossibile trovare lavoro. Lei l'ha trovato, Denise? Lo sta trovando? Me lo sono inventato. E che cosa si è inventato da psicologa? Me lo sono inventato in questi anni, coltivando la passione che ho per i bambini, facendo l'educatrice e scoprendo che, senza avere troppe pretese di necessariamente un lettino alla prima seduta nello psicanalizzare il resto del mondo, si possono fare moltissime cose. Quindi ha messo a frutto le sue competenze lavorando ancora prima proprio nel campo. Esatto. Brava Denise, complimenti. No, ma quindi cosa va a fare la psicologa a domicilio? Lavora con i bambini, vero Denise? Lavoro con i bambini, sì, io faccio l'educatrice e da fra pochissimo spero di poter concretizzare nel facendo un lavoro più approfondito a livello psicologico, cioè. Ma comunque... Però questa è un'esperienza, Denise, come suggerivano i nostri esperti, che porta giusto valore, aggiunge valore a quella che sarà poi la sua esperienza di psicologa. Quindi in gamba, poi Cuore Denari porta fortuna, quindi chiamateci esatto, in tanti. Perché, esatto, perché loro non lo sanno, ma è così. 800 24 00 24, secondo me iniziano a saperlo. Monica da Milano, buongiorno. Monica, buongiorno. Monica si è inventato un lavoro, dice, ma è molto particolare, io voglio sapere veramente tutto quello che fa. Monica, buongiorno, anzi noi lo vogliamo sapere. Allora, buongiorno, io volevo dire che io non ho mai avuto problemi di trovare un lavoro, perché penso che dipende molto dalla personalità della persona quando si presenta un colloquio di lavoro. Però io ogni volta quando lavoravo mi trovavo che ero sempre io che aiutavo gli altri, ero un punto di riferimento per tutti. E lì ho iniziato a pensare, ho detto ok, lo trasformiamo in un lavoro, perché io ho una grande passione che è una scienza antichissima che si chiama numerologia, e io da 20 anni che la uso e la facevo come passione, e poi ho deciso che trasformo la passione nel lavoro. E come ho fatto? Io attraverso la data di nascita, penso che è molto coerente con quello che si parla oggi, riesco a stilare un profilo completo della persona, e attualmente sto collaborando con delle aziende nella selezione del personale. Vi posso quindi dire attraverso la data di nascita, dottor Bonardo, grazie per Monica, dottor Bonardo, insomma poi... si arriva anche a questo, a selezionare in base alla data di nascita, la numerologia. No, che io Nicoletta gliela mandiamo subito le nostre. Monica, chissà cosa sì. c'è scritto nel nostro destino in base a questo. Bonardo. Ma, sinceramente per me questa è un'esperienza di conoscenza nuova. Vede che si impara oggi. Sempre qualcosa qua a Cuore Denari, perché noi siamo molto creativi. Eclettiche. Sì. È super creativo, anzi voglio farvela raccontare da lui, da Stefano Di Marco. Io mi eclisso per 2 minuti, vai tu. Allora, hashtag coglione no è un hashtag che ha fatto il botto. Ci sono 3 video che sono stati caricati lunedì 13 gennaio e hanno ottenuto una media di 200.000 visualizzazioni a testa ed una valanga di condivisioni. A realizzare questa campagna Zero Filmmaker è un collettivo di creativi che è composto da 3 videomaker. Uno l'abbiamo in linea con noi, è Stefano De Marco. Stefano, posso darti del tu, vero? Certo, devi. Vogliamo ricordare anche i tuoi compagni? Nicola Falzetti e Alessandro Rizpan. Insomma, noi ti abbiamo voluto coinvolgere perché Deborah ha detto parlane tu, perché sai che lei non vuole dire parolacce. No, no? Vabbè, ma Stefano, per carità, ecco, del cielo. Però perché è molto insomma, raccontaci tu questo progetto. Voi volete fare una campagna per sottolineare quanto la creatività sia importante, ma soprattutto denunciare anche che spesso i lavori creativi vengono in qualche modo danneggiati da una certa mentalità. Esatto. E allora, ma in realtà il nostro la nostra idea iniziale era quella di dar voce a noi stessi, perché noi facciamo questo lavoro più o meno da 2 anni intensamente, che non ci lascia tempo per fare altre cose, e quindi possiamo considerarlo il nostro unico lavoro, il nostro unico e principale lavoro. E niente, era appunto, cioè, la frase del il tormentone per questo progetto non c'è budget, era una frase che ormai inizia a diventare un po' scomoda da sentire. Sì. E quindi abbiamo pensato, insomma, perché dopo l'ennesimo lavoro così, per un aneddoto che Nicolò racconta sempre, che potrei trovare in giro perché ormai l'ha detto ovunque e sì, non sarò a ripetere. Lì non è stato molto detto, creativo. Sì, abbiamo detto, insomma, appunto, perché non facciamo questi 2 spot in cui trasliamo la cosa su dei mestieri comunque, ecco, e avete fatto consolidati questi... nel tempo. Infatti voi avete fatto questi 3 spot, è molto carino quello del primo video, no? Dove c'è l'idraulico che non viene pagato. Sì, esatto. E poi c'è il giardiniere, l'antenista, e comunque appunto sono altri 2 mestieri manuali. Ecco, li vogliamo solamente raccontare, ecco, del ricastro romanesco che al giardiniere dice te sto a dare l'occasione di lavorare in un giardino di un certo tipo? Sì, esatto. Poi abbiamo cercato di diciamo, il cliente, abbiamo cercato di dargli delle frasi da dire che potessero rappresentare un po' tutta una classe, quella appunto dei clienti che magari non hanno i soldi, però poi invece il giorno dopo li vedi che, non so, escono con un cartellone pubblicitario da una parte, certo. Oppure quelli che ti danno visibilità e poi spendono i soldi per comprare la macchinetta del caffè nuovo, insomma. Certo, e questo è vero, il lavoro creativo, la creatività è un dono ma la professionalità è un lavoro. Esatto. Senti Stefano, per concludere questo nostro piccolissimo incontro, dai un messaggio a chi, ci sono tanti giovani che si sentono creativi, vogliono un po' magari realizzarsi nel mondo della moda, anche cercare qualche lavoro nuovo, proprio coltivando oggi qualche... la ristorazione va molto, certo, di moda, no? Che cosa Stefano può fare? Oltre a realizzare dei video che state veramente facendo avendo un successone. Guarda, non vorrei avere in realtà l'arroganza di... No, dai, dire buttati. Qualcosa. No, perché comunque dire che cosa fare a qualcuno è già appunto un passo, secondo me, verso l'arroganza. Quello che personalmente, non voglio farmi portavoce gli altri due ragazzi di Zero, perché poi c'è Niccolò che mi bacchetta sempre, perché sono io quello che dice sempre. Ma di un consiglio, Stefano, così passiamo anche ai nostri ascoltatori. Non demordere, comunque non scoraggiarsi. No, io quello che dico è sempre di appunto cercare di capire cosa effettivamente si vuole fare e soprattutto cosa effettivamente si è in grado di fare. Oh. E di conseguenza, appunto... tirare le somme e vai, grazie, e lavorare. Grazie, e lavorare. Lavorare. Io sono uno di quelli con la barba in cotta e il pigiama che però lavora. Grazie Stefano. Grazie Stefano, buona giornata e in bocca al lupo per tutto. Monica, grazie. Buongiorno da Milano. L'abbiamo sentita la number coach. Ah, Daniele, Davide, Alberto, 800 24 00. Tutti nomi bellissimi. Sai che se io mi fossi non chiamata Deborah mi sarei chiamata o Daniele o Davide, per cui ripeschiamo tutti e due. Daniele da Prato, buongiorno. Ma buongiorno a voi e grazie per questa opportunità che non solo date a me ma anche agli ascoltatori che si trovano. Guardi, l'abbiamo pescata Davide perché il suo intervento ci interessa molto. Daniele. Daniele, no, sì, Davide. No problem. Allora, innanzitutto direi che l'entusiasmo è il motore che fa partire una nuova attività da zero. E ovviamente io mi sono trovato nel mezzo del cammin della mia vita con una cassa integrazione per 2 anni a 0 ore, con un'iniziale disperazione perché mi sono trovato spaesato, solo. Insomma, è il momento pigiama quello, vero? Sì. Quello è il momento pigiama. Il pigiama io al di là che non lo porto, ma non è quello. Problema è che il pigiama non riuscivo proprio a metterlo psicologicamente, quindi mi sono proprio trovato come una trottola a girare a vuoto. Quindi, che ha fatto? Cosa ho fatto? Ho preso quello che avevo di più caro vicino a me, i miei bambini, ho detto voglio provare a vedere se l'animazione che ho sempre fatto per gli adulti, per i grandi, può funzionare anche per i bambini. Ho preso loro come cavie, come i loro compleanni, come diciamo momenti da testare. Sono andato bene, quindi i genitori dicono quindi fa l'organizzatore di feste per bambini, ecco. e tra l'altro si diverte, è diventata la sua professione, quindi questa Daniele adesso a volte ce l'abbiamo in casa, ce l'abbiamo dentro di noi, quello che è la chiave del nostro successo. Ma mi piace invitare i nostri amici all'ascolto, se siete nel momento pigiama chiamateci 800 24 00 24, anche se non avete la barba, esatto, perché noi donne solitamente non ce l'abbiamo. No, però ci piacciono gli uomini con la barba. Andiamo a Davide della provincia di Cuneo, adesso sono sicura del nome. Davide, buongiorno, perché questo è anche un argomento che affrontavamo a microfoni spenti, per cui vorremmo condividere con lei, appunto con i nostri ospiti, questo tema. Ci dica. Salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, io come ho detto prima, in anticipazione... Vada Davide, perché noi non sappiamo che cosa lei ha detto prima. Allora, andiamo di sintesi, brevemente. Grazie. Prima ero in macchina, sentivo il colloquio di lavoro. Io noto una mancanza, secondo me, da parte di chi si propone come offerta di lavoro, nel senso che si investe del tempo per fare i colloqui, che è una cosa giustissima, bisogna conoscere il candidato. Io questo purtroppo lo sto vivendo sulla mia pelle, nel senso che ho una sorella di 27 anni che sta facendo colloqui su colloqui, però non riesce a trovare lavoro. Perché, ma non è quello il problema. Perché cercare lavoro è un lavoro. Esatto, questo senza ombra di dubbio, però il discorso è anche questo. Io sto notando che quando un'azienda ti fa il colloquio di lavoro, sì, poi solitamente non dà una risposta o non dà una risposta, specifico meglio, esauriente, sì, nel senso che va bene dire grazie, ti teniamo in considerazione, per il momento no, però quando arriva questo sì, forse no, l'azienda dovrebbe anche, esatto, spiegare degli input per migliorare. Grazie Davide, grazie Davide. Bonardo, allora voi per le società di cui intermediate l'offerta raccomandate anche di dare una spiegazione, una buona prassi che l'azienda lo faccia o no? Sì, noi diciamo tendenzialmente alle persone con cui entriamo in contatto e che poi andiamo a offrire ai nostri clienti, quando c'è la risposta negativa, proprio nell'ottica che si diceva prima, cioè di aiutare anche la persona a orientarsi, a muoversi meglio, a non ripetere magari errori inconsapevoli che lui fa e che invece vengono ripetuti, certo, questo cerchiamo di darlo perché come servizio. Perché sennò qua nessuno si assume una responsabilità in nessun senso e qua rimaniamo tutti qua bloccati con questo 40% di ragazzi fra i 15 e i 24 anni che brancolano nel buio in questo momento in Italia, e così non va bene, Nicoletta. No, allora sul tema noi cercheremo di tornare presto e intanto ringraziamo i nostri ospiti, il nostro Claudio Belotti, grazie, che continueremo a leggere sul Daily Lab. A voi, esatto, anche Antonio, perché proprio su questo tema partirà a breve la garanzia giovani, esattamente, e quindi sarà importante appena verrà lanciata ufficialmente. È perfetto. Grande progetto europeo che ci guarda a Bruxelles, tra l'altro, con grande attenzione su questo tema. Che dobbiamo si fa? Salutare velocissimamente, ringraziare, tutti, li salutiamo tutti e ringraziamo tutti domani. Intanto vi aspettiamo, mandateci le vostre richieste, le vostre domande, noi siamo aperti anche al pomeriggio.